100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Plateroti. Riusciranno l'Europa e la Grecia a trovare un accordo? Queste sono sicuramente ore decisive. Venerdì scade l'ultimatum che l'Eurogruppo ha dato ad Atene per accettare la condizione per trattare, ovvero firmare il vecchio piano di salvataggio. Beh, sicuramente oggi sarà una giornata importante. Se andiamo a guardare i mercati finanziari in questi giorni, vediamo che tutto sommato non ci sono state grandi ripercussioni negative all'irrigidimento della linea, tanto tedesca quanto di Atene. Ma qual è il motivo? Principalmente la liquidità è talmente abbondante che, almeno a giudicare dai mercati finanziari, un contagio non c'è e quindi, anche nel caso in cui la Grecia dovesse mantenere la linea dura fino a rischiare di essere espulsa dall'euro, beh, tutto sommato, la stabilità per ora rimane garantita. Un secondo punto da tenere in considerazione riguarda la stessa Germania. La Germania in questo momento, rafforzata dai paesi del nord Europa, sta facendo un ragionamento di questo tipo. Colpiscine uno per educarne 100, ovvero se l'Atene non accetta le condizioni poste per il salvataggio, beh, allora uscisse dall'euro. In questo modo tutti gli altri paesi che pensano di poter spuntare migliori condizioni sul proprio, diciamo così, sul proprio status in Europa, sicuramente potrebbero avere una lezione davanti, che è quella di Atene. Ma certamente un disastro europeo non interessa a nessuno. Probabilmente in queste ore anche Atene si renderà conto che la teoria dei giochi, ovvero che le due parti contrapposte tenderanno sempre a raggiungere un compromesso, beh, non funziona. Siamo caduti nella teoria del prigioniero, ovvero l'escalation uno contro l'altro, come avvenne nella guerra fredda. Se il mio vicino si rafforza e alza il tono, beh, lo alzo anche io. Questo non porta da nessuna parte. Entro stasera è probabile che la Grecia, magari con qualche limatura semantica, dirà sì all'Europa, risiedendosi al tavolo su delle condizioni non più di forza come pensava all'inizio, ma certamente più di ragionevolezza. E questo è quello che interessa a tutti. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Plateroti. C'è grande confusione sotto il cielo delle telecomunicazioni. Per noi si tratta spesso di interferenze nel telefono, per loro si tratta di indiscrezioni su chi comprerà chi. Da mesi è in corso un processo di acquisto, di consolidamento tra i grandi operatori internazionali e la nostra Telecom Italia è tornata al centro dell'attenzione. Sarà un concorrente a rastrellare le azioni, come se molti in borsa pensano, visto che il titolo è salito del 14% in un mese, addirittura del 18% da gennaio, o altrimenti è qualcuno italiano che è interessato a crescere. È presto per dirlo, però fatto sta che un fatto nuovo sta accadendo. Per la prima volta si torna a parlare e ci si aspetta grandi investimenti da Telecom, non soltanto sulle reti internazionali, il Brasile e i grandi, diciamo così, mercati dove si cresce di più, ma anche in questo paese che ha un enorme bisogno di banda larga, che per capirci è quella che ci permette di scaricare o di caricare i video, le canzoni su internet, e soprattutto per la telefonia mobile. Ormai l'integrazione fra fisso e mobile è enorme, non a caso anche Telecom ha cambiato il nome in TIM, ma soprattutto è per portare l'opportunità di partecipare alla rete anche laddove i servizi sono ancora molto scarsi, e questo riguarda gran parte del territorio italiano. La speranza è che dal consiglio di amministrazione di domani e soprattutto dall'incontro di dopodomani, quando si farà l'aggiornamento al piano strategico 2015-2017, sia stanziata una buona somma di denaro per far sì che anche questo paese abbia un'infrastruttura telefonica all'altezza delle sue aspettative. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.